sette donne afferreranno in quel giorno un solo uomo dicendo: mangeremo il nostro pane e ci vestiremo col nostro mantello, solo che veniamo chiamate col tuo nome, togli la nostra vergogna. In quel giorno il germe del Signore diventerà pregio e gloria, ed il frutto della terra diventerà fierezza ed ornamento per i superstiti di Israele. Chi sarà rimasto in Sion e sopravviverà a Gerusalemme sarà chiamato santo. Tutti quelli che sono iscritti per la vita a Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion ed avrà purificato il sangue dal mezzo di Gerusalemme con lo spirito del giudizio e con lo spirito dell'incendio, allora il Signore creerà su ogni sito del monte Sion e su tutte le assemblee una nube di fumo durante il giorno ed uno splendore di fuoco fiammeggiante durante la notte, poiché sopra a tutti la gloria del Signore sarà una protezione ed una tenda, un'ombra contro il calore durante il giorno, un rifugio ed un riparo contro la bufera e la pioggia.